Firenze ti vo far la serenata. Comincerò col darti buonasera. Quando nel cielo brillano le stelle e van gli amanti nei giardini in fiore, là si ripeteranno le cose belle nell'ombra quieti stretti cuore a cuore. Non è la mia canzon di gelosia, ma questa sera in cuor Firenze mia ho qui un pensiero che finisce in canto e a te voglio cantare soltanto, fior d'ogni fiore. Quando al tramonto il cielo si scolora, Firenze sei regina dell'amore. Quando in cielo salirai, Firenze in fiore, tu non la guardare, che i mille baci non negati mai, più bianco il viso ti farà. Poi quando son le coppie dileguate, le siepi resteranno addormentate e forse stan sognando intenerite le frasi dell'amore. Fior di mortella, riposa pur Firenze e stai tranquilla, che l'arno è desto e fa da sentinella.